Grazie Noemi, ci alziamo in piedi. Vogliamo pregare ancora insieme, lo facciamo insieme appunto, lo facciamo ad alta voce, tutti alzando la nostra voce, chiediamo che lo Spirito Santo possa operare e voglio chiedere a tutti noi di fare una preghiera fervente. Com'è una preghiera fervente? Una preghiera che si fa sentire, una preghiera che fa sudare. Quanti sono pronti a sudare questa sera? Io voglio sudare, quindi alza le tue mani, fai una preghiera fervente, aspettati grandi cose perché Dio vuole operare. Grazie Padre perché questa sera tu vuoi agire nella tua chiesa, grazie Padre perché la tua chiesa è infuocata per te, per la tua parola. Io ti ringrazio Padre perché questa sera tu opererai con potenza e le porte del nemico, le porte dell'Ades non potranno resistere, non potranno distruggere. Tu sei più potente del nostro nemico, tu sei più grande, tu sei più forte. Io credo che questa sera tu possa vincere nelle nostre vite, nella nostra chiesa, nella nostra città. Padre, noi ti ringraziamo per Cristo Gesù morto e risorto per noi. Noi ti ringraziamo perché questa sera abbiamo una ragione per essere gioiosi e lodare il tuo nome, perché siamo risorti con te, Cristo Gesù. Grazie perché questa sera possiamo aspettarci qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, e noi te lo chiediamo, lo invochiamo, lo desideriamo. Abbiamo fame, te lo diciamo, Padre, noi vogliamo un rinnovamento delle nostre vite, noi vogliamo un rinnovamento della nostra chiesa, noi vogliamo un risveglio per questa città, noi vogliamo una rivoluzione per questa nazione, e nel nome di Cristo Gesù noi abbiamo la potenza e l'autorità per chiederti cose grandi, cose impossibili, perché tu sei il Dio dell'impossibile. E io questa sera mi unisco alla mia chiesa per chiederti di fare di noi un popolo di rivoluzionari, perché noi è questo che vogliamo essere, Signore Gesù. Parla ai nostri cuori, trasforma le nostre vite, allontana il nemico, ogni forma di attacco del nemico che possa fallire nelle nostre vite, e che noi possiamo essere, come dice la tua parola, più che vincitori in Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu sei più che vincitore. Dillo alla persona che ti sta a fianco, tu sei più che vincitore. Prima di accomodarci, Noemi ha fatto salutare gentilmente, ma io prima di sedermi, di venire in prima fila, ho assistito a una scena bellissima questa sera. C'era Donata che ha dato una bellissima calata ad Angelo in prima fila, mentre lui passava. Credo che Donata è nell'accoglienza. O sbaglio, Donata Nosdeo, sì, è nell'accoglienza, c'ha pure il cartellino, lei ha proprio la concessione di dare calate alle persone, perché noi accogliamo le persone, diamo il benvenuto con una santa calata. Quindi vuoi girarti alla persona che ti sta a fianco e dargli una santa calata e dirgli benvenuto, benvenuto. Va bene, possiamo accomodarci ora che abbiamo dato una santa calata. Siamo dei pazzi, se sei qui per la prima volta e ti sei preso una calata così, buona buona, perdonaci, siamo fatti così. Siamo diversi, siamo sotto sopra, siamo una chiesa upside down, amen. Quindi ci piace dare calate. Io questa sera voglio leggere quello che probabilmente è uno dei paragrafi della Bibbia più belli che si possa leggere, e io voglio leggerlo con voi ad alta voce, mi voglio sgolare questa sera, voglio sudare, voglio dare tutto me stesso perché credo nella potenza di queste parole. Quindi non vi preoccupate se grido troppo, se mi vedete barcollare, se escono delle frecciatine dalla mia bocca, la parola di Dio mi appassiona, e questo paragrafo in modo particolare, ed è un paragrafo che porta questo titolo glorioso, meraviglioso. Il titolo di questo paragrafo è La vita cristiana. E la vita cristiana è qualcosa di eccezionale, qualcosa di eccezionale veramente, cioè qualcosa di pazzesco. Tu non puoi vivere una vita migliore se non la vita da cristiano. La vita da cristiano a volte ci viene presentata e la immaginiamo e la abbiniamo a dei bigotti annoiati che seguono una routine. Ma noi non siamo questi, noi siamo seguaci di un rivoluzionatore, di un rivoluzionario si dice in italiano, meno male che c'è qualcuno che mi corregge, di un rivoluzionario, di colui che ha cambiato la storia per sempre, del Dio che si è fatto carne, il cui nome è Cristo Gesù. Quando tu porti il nome di cristiano, tu stai portando un privilegio meraviglioso. Quanti si chiamano Cristian in mezzo a noi, o cristiano? Cristian! Io faccio Cristian di secondo nome. Quanti lo sapevano? E il mio nome ha dei bonus, perché c'ha una H tra la C e la R, come Chris, bravissimo, però io ti batto perché c'ho pure una A in più. Io per ogni documento passo le mie più difficili conversazioni a cercare di convincere l'addetto di turno a capire che è una versione olandese, ok? E si scrive C-H-R-I-S-T-I-A-A-N. E io mi sento privilegiato di portare questo nome perché siamo cristiani ed essere cristiani è bello. È proprio bello, anzi è la cosa migliore. E guardate che descrizione fa il capitolo 12 dal versetto 9 della vita cristiana. E dice l'amore, questa è l'immagine che mostra della Chiesa, dei cristiani. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Sicuramente i cristiani sono quelli che godono dell'affetto più sviscerato e dell'amore più pieno e bello che si possa vivere sulla faccia della terra. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri. Siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non vi stimate saggi da voi stessi, non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. E poi va avanti dicendo ancora, a chi è che possiamo imbarazzare questa sera? Eh? Ah, è andato, però io voglio imbarazzarlo comunque. Chi è che sta là sopra? Ragazzi, mi dite... chi? Vito! Puoi alzarti in piedi e farti vedere. Si è distratto un attimo, gli facciamo un grande applauso. Grazie, Vito! Noi ti perdoniamo, noi benediciamo i nostri nemici. L'abbiamo appena letto. Ti benedico, Vito. Non conformatevi a questo mondo, ma siate... No, non è questo. Va bene, Vito. Va bene, ci sentiamo dopo, Vito. Non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti. Gli uomini, se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Io spero questa sera che alla lettura di questo paragrafo il vostro sentimento non sia, ecco, un altro pacchetto di regole e indicazioni da seguire. Ecco, qualcosa che ci schiaccia a una vita da schiavi, oppressati da quel dominatore il cui nome è Cristo Gesù. Io spero che questa sera, voi leggendo questi versi con me, possiate cogliere quale grande privilegio ci è dato nella nuova vita in Cristo Gesù di vivere la possibilità di amare di un amore sviscerato, di avere la forza, la potenza, l'autorità, la pazzia di perdonare coloro che ci fanno dei torti, di essere allegri nella speranza, di perseverare nelle tribolazioni, di essere costanti nella preghiera e tutte queste queste caratteristiche non stanno lì ad indicarti devi fare questo, devi fare quest'altro, devi chiuderti in questa stanza, devi osservare queste regole, devi schiacciarti sotto queste leggi, ma piuttosto questo pacchetto, questo paragrafo sta dicendo tu sei chiamato a una vita superiore. Dio ti dà il privilegio di vivere una vita superiore. Posso ricordarti questa sera che la parola di Dio ti invita e ti dà la possibilità di vivere quella che è la forma più alta di vita che tu possa vivere su questa terra. Non c'è forma più alta che tu possa vivere sulla faccia di questa terra, non c'è niente che tu possa inseguire che sia più alto, più di valore, più bello, più gratificante, più pieno di vita che non seguire la volontà di Cristo Gesù per te. Quello è il meglio per la nostra vita, quello è il privilegio che noi leggiamo in questi versi. Io mi sento privilegiato. Sapete, la scorsa settimana mi sono fermato a parlare con un ragazzo con una storia molto simile alla mia, figlio di credenti, che però a un certo punto ha perso proprio l'orientamento, non ha riconosciuto più Cristo nella sua vita, ha cominciato a vivere delle serate, a cercare di riempire quel vuoto interiore in tutti i modi possibili, con le passioni, con i talenti, con l'alcol, con la droga, con ogni forma di divertimento che questo mondo ha da offrire. E lui mi confidava e parlava con me dicendo: Mirko, non c'è cosa peggiore che si possa vivere che una vita vuota e senza speranza e senza Cristo. Posso dirti questa sera, senza Cristo tu sopravvivi, con Cristo solamente tu vivi veramente, ed è questa la possibilità che noi abbiamo di vivere veramente. Tu puoi vivere veramente. E sapete come inizia il capitolo 12? Il capitolo 12 inizia con queste parole. Le ritengo talmente tanto importanti che le ho memorizzate. E dice: non conformatevi a questo mondo. E io credo che è un tono che dice con molta chiarezza: non siate stupidi. È da stupidi seguire la massa, è da stupidi seguire la società, è da stupidi seguire la maggioranza. Non conformatevi a questo mondo, ma siate piuttosto trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. La tua vita migliore è quella vita che è alla ricerca, è alla scoperta, trova e poi sperimenta la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Non c'è niente di meglio su questa terra che trovare la buona, gradita e perfetta volontà. Non devi cercare nessun'altra cosa. Io spero che a partire da questa sera tu possa togliere dalla tua vita, mettere in secondo piano ogni altra cosa e mettere al primo posto la ricerca, la scoperta e poi il vivere quella buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Perché quando entri nella buona, gradita e perfetta volontà di Dio, lì ti senti completo. Quando entri nella buona, gradita e perfetta volontà di Dio, lì vivi veramente. Quando trovi la buona, gradita e perfetta volontà di Dio, non devi rincorrere più niente. Il tuo vuoto è completamente riempito. Tu vai a dormire la sera e sei soddisfatto. Tu ti alzi la mattina e sai che la tua vita ha un proposito, ed è per questo che io voglio incoraggiarti. E guardate bene, quando io parlo di questa buona, gradita e perfetta volontà di Dio, così descritta nella sua parola, non sto dicendo che la buona, gradita e perfetta volontà di Dio è facile, è semplice, non richiede sacrifici, non prevede lotte, non prevede una battaglia, anzi, proprio perché è così buona, proprio perché è così gradita, proprio perché è così perfetta, è il piano perfetto per la tua vita. Dio ti ha creato per quella ragione, proprio per questo motivo il maligno verrà con tutta la sua violenza, con tutta la sua rabbia, con ogni mezzo, con ogni strategia per tirarti giù, a vivere una vita più bassa, a declassare quel livello di vita invece al quale Dio ti ha destinato e al quale Lui ti vuole elevare. E cercherà in ogni modo, ogni santissimo giorno presenterà delle sfide, ogni santissimo giorno ti metterà davanti a delle battaglie, perché Lui non vuole che tu vivi quella buona, gradita e perfetta volontà. Lui vuole che tu vivi distruzione, rovina, morte, morte spirituale, morte fisica, morte emotiva. Lui vuole il peggio per te ed è il tuo nemico e tu sei in una battaglia. Ora, questa sera io ti voglio dare una speranza, perché la speranza c'è e si trova proprio in questi versi anche che ho appena citato a memoria. Tu hai la possibilità di entrare pienamente in quella volontà. Tu puoi essere trasformato. Tu puoi cambiare. Amici, fratelli, sorelle, chiunque tu sia e mi stia ascoltando in questo momento, posso ricordarti che questa parola, questi versi, stanno dicendo a te questa sera, questa unica serata, perché è unico, questo momento è un istante unico della tua vita. E questa sera, in questo momento, Dio sta parlando al tuo cuore in una maniera unica per ricordarti e dirti: tu puoi cambiare, tu puoi essere trasformato, tu non devi accontentarti, tu non devi vivere nella bugia del nemico che ti presenta costantemente questa menzogna nella quale continuamente ripete: tu non cambierai mai. Le circostanze non cambieranno mai. Tu non puoi farcela. Tu non puoi essere diverso. Tu non puoi vivere quella buona, gradita e perfetta volontà. Vedrai persone che vivono quella buona, gradita e perfetta volontà. Sono un'elite, sono una cerchia esclusiva di persone. A loro fila tutto liscio, ma tu no. Tu hai la storia che hai, tu hai il passato che hai, tu hai le esperienze che hai. Questa è la voce del nemico. Tu sei nella circostanza in cui ti trovi e dalla situazione in cui ti trovi non puoi uscirne, perché le cose non possono cambiare. Dio dice il contrario. Alleluia. Dio dice: no, tu puoi cambiare, no, tu puoi trasformare, tu puoi essere rinnovato, perché io ho pagato tutto su quella croce, la vittoria già ti appartiene, perché io ho vinto per te. Amen. Amen. Questa sera scegli tu. Di questo pacchetto, di questo insieme di indicazioni che abbiamo appena letto, scegli tu. Di cosa hai bisogno? Maggiore affetto, la capacità di perdonare, la capacità assurda e soprannaturale di benedire i tuoi nemici, la capacità di vivere allegrezza nella speranza, perseveranza nella tribolazione. Qual è l'indicazione che senti che è per te questa sera? Prendila, sceglila, reclamala, vivila, prega per essa. E la otterrai, nel nome di Cristo Gesù, la otterrai. Sapete qual è la mia scelta? La mia scelta è il versetto 11, voglio concentrarmi sul versetto 11 e condividervi quello che io sto vivendo. Non perché questo verso è qualcosa che io ho già ottenuto, ma io sto lottando e pregando, e se questa sera mi vedete urlare, essere fervente, proprio perché sto leggendo, pregando e reclamando il versetto 11. Versetto 11 dice infatti questo: quanto allo zelo, grazie Vito, in perfetto orario, che tempismo, quanto allo zelo non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. E quindi ieri sera ero qui in sala e mi sono, è vuota la sala, io da solo al buio ero lì che pregavo: Signore dammi zelo, Signore quanto allo zelo non voglio essere pigro, voglio essere fervente nello spirito, dammi qualcosa che possa accendere il mio spirito. E pregavo e ripregavo questa cosa senza rendermi conto che era già tardi, erano le 11 e poi le 12, e sapete, non ho preso sonno fino alle 3 e volevo dormire, mi ero messo a letto all'1. Ma sono pericolose le preghiere che fai. io ero fervente nello spirito. Ieri sera avrei potuto predicare a milioni di persone davanti a me. Perché stavo pregando. Chiedevo, Signore, fammi essere fervente, fammi essere zelante. E il Signore mi stava facendo essere, ed è da ieri sera che sto così, accelerato. Non riesco a fermarmi. Perché, fratelli, sorelle, c'è potenza nella preghiera. E io spero che tu possa comprenderlo. Io spero che tu questa sera possa comprendere che c'è potenza nella preghiera. Tu puoi ottenere queste cose e l'unica cosa che devi fare è chiedere a colui che ti dà queste istruzioni di poter riceverle e viverle nella tua vita. E succederà, perché Dio promette e poi mantiene quello che promette. E se noi ci affidiamo a Lui, Lui è il Dio buono che ci dà quello che ci promette di dare. Che cosa dice la parola di Dio in questi versi? Che non devi essere pigro. Quanto allo zelo, dice. Che cos'è lo zelo? Lo zelo per definizione è la dedizione assidua e tenace a un compito, a un impegno, a un lavoro. Io prima di aver letto e studiato questo verso pensavo che lo zelo fosse un sentimento, fosse un essere, no, impimpanti, belli, pieni, ricchi di energia, ma l'essere zelanti significa essere costanti e dedicati a un impegno in una maniera costante nella tua vita. Dedicazione, consacrazione e costanza nel tempo. Oh, quanto vorrei che noi tutti possiamo vivere questo aspetto. Quanto allo zelo, dice la parola di Dio, non siate pigri. Non siate pigri. E questo non è l'unico verso nella parola di Dio dove troviamo che la pigrizia è qualcosa di negativo. Noi troviamo altri versi, se andate a leggere Proverbi, Proverbi è un libro meraviglioso della sapienza, un libro che ti aiuta nella quotidianità e condanna continuamente, il libro dei Proverbi, nella Bibbia, condanna continuamente la pigrizia. E noi viviamo in un mondo nel quale non dobbiamo conformarci a quella che è una pigrizia generale. Quello che viviamo è una società che è assecondata nella pigrizia, che è alimentata a vivere la pigrizia. Tutti noi abbiamo un bel televisore nel soggiorno di casa e un bel divano comodo che ci sta là a dire: tu meriti un buon riposo di un'ora, no, di due, di tre, di qua, cinque, sei, li meriti tutti! E quello che ti capita quando vivi nella pigrizia è che cadi in quel declassamento di vita dove il maligno ti porta a non sognare più in grande e a non essere più un facitore di storia, a non essere più un rivoluzionario. E gli anni passano e l'età avanza e poi cominci a desiderare, a guardare con ammirazione in quel quadro colorato che si illumina sempre meglio e con più alta tecnologia quello che è il successo di vita di altri, quello che è il fare storia di altre persone e ti immedesimi in loro. Sapete la parola di Dio che cosa dice della pigrizia? In Proverbi dice che il pigro desidera e non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. Oh Dio, questa sera ti vuole parlare e ti vuole dire, ragazzi, ragazze, Dio ci vuole dire questa sera che Lui vuole un livello di vita per ciascuno di noi elevato, da facitori di storia, persone che cambiano nazioni, persone che sognano in grande, cominciano a realizzare grandi cose, ma per farlo dobbiamo abolire, cancellare, rigettare, allontanare da noi la pigrizia. La pigrizia è una bugia che ti porta a dire: se mi sforzo meno sarò più felice. La pigrizia parla e dice: ho dei talenti, ho delle capacità, posso sfruttarli. E dando il minimo posso ottenere comunque degli ottimi risultati. Questo è quello che la pigrizia dice. Dio ti ha affidato dei doni, dei talenti, per poi chiamarti ad essere operoso e farli fruttare. buttare, perché se tu sei operoso e ti dedichi per amplificarli, per farli crescere, Dio si servirà di quei talenti per farti essere una persona che cambia la storia di questa nazione. Ed è mia convinzione che Dio ha chiamato questa Chiesa a cambiare la storia di questa nazione, ma ha bisogno di ragazzi, di ragazze, di uomini, di donne che spengono la televisione, lasciano un joystick, abbandonano Facebook, non stanno lì a spendere ore su Instagram, non stanno lì a ricercare il modo migliore, la strategia più valida per rilassarsi di più, per riposare di più, perché c'è tanto che Dio vuole fare attraverso di te. La pigrizia dice: ma questa cosa mi stresserà, questa cosa porterà stress nella mia vita. Servire il Signore, venire in chiesa ogni domenica, due volte, mi chiedono addirittura due volte ogni domenica, per essere operoso per il suo regno, questo porta stress nella mia vita, io non posso fare troppe cose. Credi realmente che colui che ha creato la tua vita e ti invita a servirlo, nel tuo rispondere a quello che è l'appello del tuo creatore, che conosce ogni meccanismo del tuo cervello, del tuo cuore, del tuo organismo, voglia portarti e declassarti in una vita stressata perché lo stai servendo? Probabilmente lo stress viene da altro. Forse lo stress viene perché hai ingolfato la tua vita di altre priorità e poi hai aggiunto anche il servizio a Dio. E quindi, essendo all'ultimo tassello della tua lista, diventa stressante, diventa la prima cosa da eliminare. Mettila al primo posto. Elimina altre forme di stress, elimina altre forme di impegno, ma tu servi il Signore, perché servendo il Signore entri nella possibilità e nel privilegio glorioso di vivere una vita che fa la storia. Sapete, io non avrei mai immaginato nella mia vita, io ero un ragazzo piuttosto ozioso, non avrei mai immaginato che un giorno mi sarei ritrovato ad avere un microfono in mano, a poter parlare del Signore, a poter ricevere testimonianze di ragazzi, di ragazze, di famiglie che sono benedette da quello che è il ministero che il Signore mi ha affidato. Io non avrei mai potuto immaginare che sarei stato chiamato in altre parti della nazione, in altre parti del mondo, per dare testimonianza di quello che Dio ha operato dentro di me, ed è quello che sta succedendo. E io non sono speciale, non sono per niente speciale, ero il più ozioso dei ragazzi. Ero la persona che più amava stare su quel divano, ascoltare buona musica, vedere un sacco di videoclip, e non riusciva neanche a far fruttare un talento mi ha dato il Signore, la capacità di suonare la batteria. Questo è il vero talento che il Signore mi ha dato. E non riuscivo a investire il mio tempo per migliorare. Ero il più scarso dei musicisti che c'erano nella mia band. E poi il Signore mi ha chiamato. E poi il Signore mi ha chiamato. E mi ha mostrato: io ho un destino di vita per te. E qualcuno è venuto a me e mi ha profetizzato. Ed è stato nel 2002, potrei cominciare a piangere nel citare queste parole, perché io non ci credevo e non ci ho mai creduto, e questa profezia diceva: il Signore ti chiama ad essere un predicatore nella nazione. Il Signore ti chiama ad essere una persona che porterà l'Evangelo a migliaia di persone. E quando queste parole mi furono dette, io le rifiutai, dice: non è possibile, a me piace stare dietro una batteria, al massimo posso servire lì dietro. E come è successo che da lì dietro mi ritrovo qui avanti? Non è per merito mio, non è per capacità mia, è per grazia sua, è per ubbidienza a quei singoli passi che lui mi ha chiesto di fare. Spegnere un po' di più la televisione, usare di meno il cellulare, uscire qualche volta in meno, perché si può fare, studiare di più la parola, immergerti di più in una vita di preghiera, e tutto a un tratto ti ritrovi a vivere un destino di vita che veramente ha valore, che veramente ha senso. Dio ti sta chiamando a questo. Esci fuori dalla pigrizia, entra nell'operosità e comincia a sognare in grande, perché Dio vuole realizzare grandi cose attraverso di te. La pigrizia è un problema, eliminala. Sapete cosa succedeva a casa mia? Eravamo tre fratelli. Vi ricordate quando i televisori non avevano il telecomando? Il telecomando era, come dire, incorporato nella televisione. Tutti i tasti erano lì. Tre fratelli. Stavamo lì sdraiati sul nostro divano a guardare le trasmissioni, il cartone animato di turno, la serie televisiva che ci piaceva, o i telefilm, all'epoca non c'era la serie televisiva. E poi succedeva questa cosa solita, che la trasmissione che stavamo seguendo finiva, perché tutte le trasmissioni a un certo punto finiscono, e partiva la pubblicità. E da quel momento in poi cambiava l'atmosfera nella stanza. C'era una lotta. Prima era una guerra fredda, senza parole. Poi era una vera e propria lotta, dove volavano i cuscini, dove saltavano le gambe, i piedi, le mani. Perché? Perché dovevamo lottare per chi doveva fare quei due stupidi passi per arrivare alla televisione e cambiare canale. Ed era una lotta a dire, no, vai tu, oh, l'ultima volta sono andato io, no, due volte fa, te lo ricordi che sono andato io? E noi lottavamo, sprecavamo le nostre energie, litigavamo, e sapete la maggior parte delle volte che cosa succedeva? Che ci guardavamo anche quel barboso programma televisivo che veniva dopo, pur di non alzarci, fare quei due passi e cambiare canale. Questo è quello che la pigrizia fa nella tua vita. E ti ritrovi a vivere un programma che non volevi vedere, a vivere un destino che non volevi che fosse tuo. Perché? Perché non ti sei alzato a fare quei due passi e spingere quel piccolo tasto. Io questa sera sono convinto che il Signore sta parlando ai nostri cuori, perché ci sta portando ad alzarci in piedi, a fare quei due passi, a cambiare canale, perché c'è qualcosa di meglio da guardare, c'è qualcosa di meglio da vivere, da sperimentare nella tua vita e nella mia vita. Dice poi: siate ferventi nello spirito. Ora questa cosa ve la voglio far capire nella maniera migliore, e quindi utilizzerò un'illustrazione. Chiedo ad Antonio di venire qui sul palco, perché voglio farvi vedere, già lo prendo, un attrezzo. Non lo so quanti lo conoscono, è un attrezzo di lavoro che, visto così, quanti lo riconoscono? Posso vedere le mani? Quanti non lo conoscono? Posso vedere le mani? Ah, bene, bene, bene. È un attrezzo insignificante, cioè tu lo guardi e dici, ma che cosa può fare questa cosa? Non puoi battere, non puoi afferrare niente, c'è un tassello, c'è una cosa, ma che cosa può fare questo attrezzo? È un asciugacapelli, dice qualcuno. Spero di no. Vogliamo fare un applauso ad Antonio, che mi aiuta sempre in queste pazzie. E questa è l'illustrazione perfetta della nostra vita. Un attrezzo sporco e inutile che non ha senso. Ed è così, così era la nostra vita. Siete d'accordo? Non aveva senso, senza Cristo non c'era possibilità di fare niente. E poi qualcosa è successo, qualcuno ci ha parlato di Cristo Gesù, o abbiamo cominciato a leggere l'Evangelo, ad aprire la Bibbia, e qualcosa è capitato, qualcosa è successo che era molto più profondo, era qualcosa che non aveva a che fare con una routine, con un atto esteriore di venire in chiesa o farti un bagno nella vasca battesimale, era nata qualcosa di nuovo, un miracolo dentro di te, si era accesa una fiamma. Un piccolo indizio. Si era accesa una fiamma. E questo è quello che succede nella nostra vita, sì, lo puoi accendere. Che quando noi conosciamo Cristo Gesù, si accende una fiamma. Tu sei chiamato a vivere il privilegio di avere un cuore che brucia, che pulsa di passione, a cominciare ad avere significato, no? Credo che adesso, per chi non conosce questo attrezzo, comincia a capire, puoi venire più al centro, Antonio, comincia a capire un po' di più che questo attrezzo può avere diverse funzioni. Infatti proveremo sulla chitarra di Letizia, se non sbaglio. Testeremo quello, no, non si può. Più di uno si protesta da là dietro. Però sapete, Dio non ci chiama a vivere solo la bellezza di una fiamma, di qualcosa che stuzzica il nostro sentimento, ci fa stare bene, lo diamo, oh, che bello questo canto nuovo, no? Mille ragioni per adorare te, no? E stiamo lì, benedici, oh anima mia, ed è bello, no? Ci riscalda. Ma Dio ci ha pianificato la nostra vita per essere qualcosa di molto di più di questo. Dio ci chiama ad essere zelanti, e questo è la vera possibilità, il vero privilegio che tu hai nella tua vita. Volete vedere come funziona in maniera zelante questo attrezzo? No, siete rimasti impietriti. Sono rimasti. No, non succede niente, non arriva fino là, non è un lanciafiamme, è solo una. Io consiglierei di legare i capelli a chi sta in prima fila. Volete vedere come funziona? Ecco la vita di un credente fervente. Fallo andare. Capite? Vi piace? Posso fare un giro? posso fare un giro anch'io? Sì! Sì! Questo! A questo siamo chiamati! Sì! Grazie Antonio, vogliamo fare un applauso ad Antonio. Ferventi, sapete che significa il termine originale in greco di questa parola? È ancora fervente la fiamma lì. Tranquilli, abbiamo l'estintore, c'è Samuele da qualche parte lì dietro, pronto con l'estintore. Ah, sta qua, grazie per questo sabotaggio, ora mi sento più sicuro. No, mi fido di mio padre. Fervente nella parola originale greca significa in ebollizione. Letteralmente, l'apostolo Paolo ai Romani sta dicendo che il vostro spirito sta invitando, sta dando indicazione e ci sta mostrando, guidato dallo Spirito Santo, che tu e io siamo destinati a una vita che è così carica, così la temperatura si alza talmente tanto che noi arriviamo ad una ebollizione. Tu devi essere in ebollizione, è un comando di Dio, siate ferventi, dice, no, non è un suggerimento, non è, se avete la possibilità, no, alzate un po' la temperatura. In Apocalisse, capitolo 3, versetto 13, forse questo è un verso che conoscete, è un altro passaggio nella Bibbia dove ci viene mostrato che Dio vuole figli suoi, seguaci suoi, cristiani, che siano ferventi. A tal punto lo vuole che dice, oh, foste voi pur freddi o caldi, ma siete tiepidi, e perché siete tiepidi? Io vi vomiterò dalla mia bocca. Questo è quello che Dio sta dicendo. È pesante, sono parole pesanti, ma Dio ti invita a quella vita elevata dove tu puoi essere fervente nello spirito. Un uomo, una donna fervente nello spirito è una persona che sa pregare, è una persona che conosce la scomodità delle ginocchia che si incalliscono. Una donna, un uomo fervente è una persona che si alza la mattina e non si fa guidare dalle circostanze, non gironzola in una maniera disorientata, ma prende ogni singola occasione per condividere l'Evangelo. È sempre in connessione con lo Spirito Santo per chiedere, Spirito Santo, dove vuoi che io vada? Che cosa vuoi che io faccia? Che cosa vuoi che io dica? Il torto che tu subisci nel momento in cui sei fervente nello Spirito e non nello Spirito carnale, ma nello Spirito di Cristo Gesù, ti porta immediatamente a perdonare il fratello, immediatamente a perdonare la sorella. Al torto che subisci, tu porgi l'altra guancia, stai a amare, sei pieno d'affetto. Dio ti invita ad essere fervente nello spirito, e questa è la mia preghiera per me, e io lo prego per ognuno di noi, che noi possiamo essere ferventi nello spirito, una fiamma che è forte, che è vigorosa. E sai, non è uno sforzo che devi fare tu. Dio non ti sta chiedendo di fare degli sforzi personali, ti sta chiedendo di chiamarlo in causa. Perché sapete chi è l'uomo più fervente che sia mai esistito sulla faccia della terra? Cristo Gesù. Lui era fervente. Lui era fervente, non si fermava mai. Ad ogni occasione cercava di fare del bene, aborriva il male e si atteneva fermamente al bene. Manifestava ospitalità addirittura con i peccatori della peggiore della specie. Era sempre attivo nella preghiera, dormiva poco per pregare, era a volte stanco, non accettava la pigrizia nella sua vita. Noi leggiamo addirittura di una storia che nel mezzo della tempesta quest'uomo, l'uomo Cristo Gesù, stava dormendo nella barca mentre la barca incamerava acqua. Ma voi ve lo immaginate? Era talmente stanco che lui era sfinito lì che dormiva, mentre l'acqua gli bagnava il viso, mentre le onde sbattevano la barca. Perché? Perché era attivo perché era fervente, non apprezzava la pigrizia, voleva essere lì e in 3 anni ha cambiato il mondo e ha rivoluzionato la terra. Tu puoi vivere questo stile di vita, tu sei destinato a vivere questo stile di vita, io posso vivere questo stile di vita e io voglio essere fervente nello spirito. Ultimo aspetto, leggiamo tutto il verso. Verso 11 dice: quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito. E conclude dicendo: servite il Signore. E io vorrei che noi capissimo, fratelli e sorelle, amici, che tutte queste cose sono connesse fra di loro. Ed è tanto vero che per servire il Signore devi essere fervente nello spirito, quanto è vero che servendo il Signore tu accenderai la fiamma e diventerai più fervente nello spirito. Sono collegate fra di loro. E il Signore ti fa questo invito e ti dice: servimi, metti la tua vita al mio servizio, servimi, non vivere la pigrizia, sii carico di aspettativa, abbi fame, sii una persona di preghiera, sii un evangelista, servimi. E quello che mi piace di questo verso è che dice proprio con chiarezza: servite il Signore. Servite il Signore, sta dicendo questo verso, perché nello stesso libro di Romani, al capitolo 16, l'apostolo Paolo ammonisce alcuni fratelli che sono presenti nella chiesa e che causano addirittura delle divisioni e dice di loro: loro non stanno servendo il Signore. Sembra che stiano servendo il Signore, ma loro stanno servendo il loro ventre. Loro stanno appagando i loro desideri. E sai che quando servi il Signore puoi cadere in questo errore, in questa catastrofe. Perché questa è, che al posto di servire veramente il Signore, stai servendo te stesso, il tuo riconoscimento davanti agli altri. Ah, se mi danno un titolo, se mi danno una responsabilità, se sono qualcuno in chiesa, allora voglio servire. Ma non stai servendo il Signore in questa maniera. Stai servendo te stesso. Stai servendo una posizione. Stai servendo il tuo ego. Stai servendo il tuo orgoglio. Qui ci tiene la parola di Dio a dire: servi il Signore. Perché in ultima analisi non sei chiamato neanche a servire gli altri. È forte da dire, ma per quanto la parola di Dio ci istruisce a servire gli altri, questi non vengono mai prima del Signore. Quindi quando tu servi gli altri, lo fai solo bene nel momento in cui veramente lo fai principalmente per servire il Signore. Io sono qui per servirvi. Io sono qui, mi sono preparato, ho preparato questo messaggio, l'ho meditato per giorni, ho studiato, sono qui, sono carico, cerco di dare il meglio perché voglio servire voi. Ma se servissi voi, allora sarei appagato quando mi ascoltate, quando ci siete, e sarei depresso nel momento in cui non ci siete più, non mi seguite, non mi ascoltate. E questa è l'altalena, e questa è la montagna russa nella quale noi ci possiamo ritrovare servendo il Signore. Quando sentiamo la pacca del fratello, quando sentiamo il complimento, quando veniamo visti per i servizi che facciamo, ogni tipo di lavoro che facciamo per la Chiesa, per il Signore, allora lo facciamo perché siamo motivati, ma stiamo servendo l'altro prima di servire il Signore. Questo è sbagliato. Io, se sono qui questa sera, è perché prima e più di ogni altra cosa voglio servire il mio Signore. Perché quando mi ritroverò davanti a Lui, io voglio poter dire: quella sera, in quel giorno, nella mia vita, io ho servito te. Non ho servito loro, non ho servito il mio ventre, i miei desideri, la mia voglia di riscatto. Io ho servito umilmente te. Quando ti trovi davanti a un verso come questo, ti devi fare solo 2 domande. La prima è: stai servendo in una qualche maniera? Sei impegnato, sei zelante? Hai preso un compito che porti avanti assiduamente? Qualcuno a volte viene a me e dice: no, sai Mirko, no. Io voglio dare una mano, voglio essere volontario in chiesa, ma non mi dare un compito, non mi dare una responsabilità. Guidare un gruppo, no, non mi piace quello, piuttosto vorrei fare quest'altra cosa. Ma sai, a dire il vero, avremo bisogno più in quella direzione, avremo bisogno di più capogruppi. Non ci serve tanto quella cosa. No, ma a me piace quella cosa. e magari ti senti male perché non puoi fare quella cosa, perché la tua cosa e quella cosa sta pagando il tuo ventre. Non stai servendo il Signore, non stai servendo con umiltà, non ti stai mettendo nella condizione di dire: io sono qui con le braccia aperte, col cuore ben disposto, e voglio fare qualsiasi cosa mi viene chiesto di fare. Tu non servi però neanche il pastore, tu non servi un leader di questa chiesa. Non lo fare. Non servire perché io te lo chiedo, non servire perché qualche responsabile in chiesa te lo chiede. Servi il Signore. E sai qual è la maniera migliore per fare del Signore il tuo datore di lavoro? Chiuderti nella stanzetta e dire a Lui: Signore, che cosa vuoi tu che io faccia? Dimmelo tu, mostramelo tu, e non vuoi che Lui te lo mostrerà. E non sarà tanto bello, mi preparo già. Non sarà quella cosa che vuoi fare o che hai sempre avuto aspettativa di fare. Magari non prevederà un pulpito e un microfono, non prevederà di essere in vista se ti piace essere in vista, e non prevederà magari di essere dietro nascosto se ti piace essere nascosto. Magari il Signore ti chiama ad essere in vista quando non vuoi essere in vista. Dio ti mette in maniera scomoda al suo servizio, perché vuole che tu dipendi da Lui e dalle sue forze e dal privilegio che Lui ti dà di servirlo. Questa sera prendi una decisione. Prendi la decisione di dire: io dico basta alla pigrizia. Io dico sì all'essere zelante, voglio prendermi un impegno, lo voglio portare in maniera assidua. Io dico sì a quel piano e progetto di vita che Gesù ha per me. Io voglio servirlo con tutto il cuore e voglio essere fervente nello Spirito. Fai questa scelta. Qual è il momento migliore? Quello della cena del Signore, dove puoi confrontarti con quel ricordo della passione sua, di quanto Lui è stato disposto a servire il Padre prima di tutto e poi ciascuno di noi per la salvezza di questo mondo. Vogliamo alzarci in piedi? E non lo so, io credo che questa sera forse tu devi fare una scelta che precede tutte queste altre scelte, e la tua scelta è proprio quella di arrendere la tua vita a Lui, perché Lui hai scoperto questa sera, forse l'hai sentito per la prima volta, che ha un proposito di vita per te, che tu sei stato creato per uno scopo specifico, che tu non sei stato creato per vivere in una maniera passiva le circostanze di questa vita, ma c'è un progetto che Dio ha previsto che tu viva, che tu possa sperimentare, per il quale tu ti possa appassionare e dedicare. Signore ti sta chiamando, e quando diciamo che Gesù è il Salvatore, non lo diciamo perché semplicemente Lui perdona i nostri peccati e cancella il nostro passato, ma Lui è Salvatore perché Lui ti dà la possibilità di vivere una vita riscattata, salva da tutte quelle forme di impedimenti e di ostruzioni e di limiti che il maligno vuole metterti per declassarti e farti vivere un piano di vita più basso. Questa sera accetta Gesù nel tuo cuore, accetta di seguirlo, accetta di rimettere nelle sue mani completamente il tuo presente e il tuo futuro, e Lui si prenderà cura di cancellare, eliminare il tuo passato. Se sei questa persona, posso chiederti in questo momento di alzare la tua mano, mentre tutti noi manteniamo gli occhi chiusi e stiamo in preghiera. Se tu sei quella persona che dici: io voglio arrendere la mia vita a Cristo Gesù, io voglio vivere una vita che ha uno scopo, io voglio vivere una vita che ha un senso, io non voglio vivere nella vuotezza, io non voglio vivere appiattito e seguendo l'andazzo di questo mondo, io non voglio adeguarmi a quello che la massa fa, io non voglio essere uno dei tanti, io non voglio essere un numero qualsiasi, io voglio essere il figlio di Dio per il quale c'è un progetto di vita che voglio adempiere in me pienamente. Se tu sei quella persona, alza la tua mano. Grazie, vedo alcune mani. Grazie, che bello, posso pregare per te, che questa è la cosa migliore che posso fare. Se c'è qualcun altro, ora tu puoi abbassare le mani. C'è qualcun altro? Se c'è qualcun altro, fatti vedere, non tanto da me, ma testimonialo a Dio, il tuo desiderio di dire: questa sera io voglio arrendere la mia vita. C'è qualcun altro? Chiesa, manteniamo gli occhi chiusi, abbassiamo il nostro capo, intercediamo e preghiamo per queste persone. È un momento di decisione e anche di lotta. Io ti ringrazio per la tua mano, vedo altre mani che si alzano. Che bello. Vuoi ripetere con me questa preghiera? Lo facciamo tutti insieme, Chiesa, per accodarci e per unirci al desiderio di queste persone che hanno alzato la mano. E se tu in modo particolare hai alzato la tua mano, ripeti con me queste frasi che sono una preghiera. Io ti aiuto a farla. Ma poi a partire da questa sera esprimiti liberamente tu stesso davanti a Dio. Ma ripeti ora con me questa preghiera. Signore Gesù, io voglio la tua vita. Io non voglio sopravvivere. Io voglio vivere veramente. Io voglio entrare in quello scopo di vita, in quel progetto di vita che tu hai prestabilito per me. Ti prego di perdonare i miei peccati, ti prego di perdonare la mia autonomia, ti prego di perdonare anche la mia ribellione nei tuoi confronti. Io ti riconosco quale creatore e quale mio padre, e ti chiedo questa sera di salvare la mia vita per sempre. Amen, amen. Amen. Amen. Voglio brevemente pregare ancora per chi questa sera dice: io voglio vivere la pienezza della vita cristiana di Romani 12. Io voglio essere fervente nello spirito. Io dico no alla pigrizia. Io voglio essere zelante. Io voglio servire il Signore. C'è qualcuno? Alza le tue mani in cielo e voglio pregare. Padre, grazie per una chiesa che si arrende. Una chiesa che si arrende alla verità della tua parola e che vuole fare di Romani 12, 11 il motivo di vita. Io prego per zelo in questa chiesa, io prego per fervenza nello spirito, io prego che tu ci possa portare in ebollizione, io prego che ciascuno di noi possa servire ed entrare nel privilegio di vita di servire te, Signore Gesù, perché non c'è cosa migliore alla quale noi possiamo aspirare. Io ti prego che il maligno non possa rubare le verità che tu hai seminato nei nostri cuori questa sera. Io prego che tu possa difendere i tuoi figli e fargli vivere la pienezza di vita alla quale tu li hai destinati. Io benedico ciascuno di loro e ti ringrazio per la loro arresa a te, e ti lodo, Signore Gesù, per quello che tu hai detto e hai fatto questa sera. A te la gloria e l'onore. Amen. Vogliamo lodare il Signore insieme.